Una scelta saggia, ma non basta. Per proteggere le chiavi da mani indiscrete, potete sigillarle con un incantesimo di protezione. Il sigillo deve essere intelligente. Deve riconoscere se chi lo tocca fa parte del vostro gruppo e solo in quel caso aprirsi. In tutti gli altri casi, rimane chiuso. Completate quindi la formula magica. Se persona non appartenente al gruppo, sigillo è uguale a chiuso. Altrimenti, sigillo è uguale a... Quale parola completa correttamente la formula?